Savonarola, il frate che fece fuoco e fiamme a Firenze, stagione 2. Un programma prodotto da e per Radio Big World. In realtà sono prose scelte scritte prima dell'elettricità da Pasquale Villari, che considerava il triciclo un serissimo pezzo di ingegneria, tanto che la prima automobile, la Benz Motorwagen, era un triciclo motorizzato venuto addirittura prima della bicicletta, perché ancora non si erano inventate la cremagliera e la catena, tanto che il pedale era fisso alle ruote. E lette da me, che considero il triciclo come un gioco d'infanzia per imparare ad andare in bicicletta, che oggi ha addirittura la pedalata assistita da un motore elettrico e viene considerata l'alternativa all'auto. Il triciclo per bambini, questo sì, è ancora il pedale fisso alla ruota. D'altra parte, dice il proverbio, né di tempo né di signoria non ti dar malinconia. Serio, capitolo 2, volume 2, la prova del fuoco. Il giorno 6 aprile, Domenica delle Palme era destinata alla singolare tensione. Fra Domenico e fra Giuliano Rondinelli erano i campioni, scelti di comune accordo. San Marco era chiuso da più giorni e i suoi frati immersi in continua orazione. La sera del 5 si ricevette però un avviso della signoria che rimandava l'esperimento al giorno 7. La cagione di una tal decisione rimase ignota. Assicuravano alcuni che la signoria aspettasse da Roma un breve di proibizione, giacché voleva avere un modo di potersi fermare a suo arbitrio, essendo già spaventata ad essere andata così oltre, né avendo pensato di trovare tanta decisione in San Marco e tanta paura nei frati minori, i quali già chiedevano d'essere assicurati del come s'uscirebbe di questa impresa. L'indomani si faceva nuova deliberazione in palazzo per modificare quella già scritta il 30 di marzo e dicevasi: in caso che fra Domenico Arda, fra Girolamo si intenda, nello spazio di 3 ore, esiliato dal territorio fiorentino. E dei frati minori neppure una parola per poterli in ogni caso mettere in salvo. Quel giorno stesso il Savonarola faceva un altro breve discorso, raccomandando caldamente a tutti i fedeli fervide orazioni. Intanto si era giunti al 7 di aprile e i brevi di Roma non arrivavano. La città era impaziente di vedere il nuovo spettacolo che niuna ragione sembrava potesse più impedire. Tutto s'apparecchiava per la esecuzione ed ognuno sperava condurla al suo intendimento. Volevano i compagnacci ed arrabbiati trovar modo onde ammazzare il frate. Cercavano i frati minori come scampar salvi dal pericolo e la signoria favoriva tutto ciò che riuscisse a danno del Savonarola. Le due parti decisero quindi di venire in piazza accompagnate da gente armata onde potere in ogni caso di tumulto provvedere alla propria salvezza. Francesco Gualterotti e Giovan Battista Ridolfi ebbero l'incarico di provvedere al buon ordine per parte di San Marco. Daniello Alberti e Tommaso Antinori l'ebbero per i frati minori. E tanto il Savonarola aveva in sospetto la fede dei suoi avversari che la mattina stessa mandò in palazzo Francesco D'Avanzati a pregare i 10 rimastigli sempre fedeli di ordinare la cosa in maniera che ognuno potesse, retrocedendo, lasciar solo il compagno nelle fiamme. Voleva perciò che il fuoco s'appiccasse da un lato, dall'altro entrassero i frati e subito dopo si riaccendesse dietro a loro. Desiderò ancora che l'esperimento avesse luogo prima del desinare per conservare nei suoi la mente più libera e chiara. Mentre che ogni cosa s'apparecchiava in piazza, il Savonarola celebrò in San Marco una messa solenne, poi fece un breve discorso al popolo radunato e neppure in quell'ultima ora potette nascondere la sua diffidenza. «Io non posso accertarvi che l'esperimento avrà luogo, perché questa cosa non dipende da noi. Ben posso dirvi che, ove si venga al fatto, la vittoria sarà certamente nostra. Oh Signore, noi non avevamo bisogno di queste prove miracolose per credere alla verità, ma ci siamo stati provocati e non potevamo mancare di sostenere il tuo onore. Noi siamo certi che il demonio non potrà far procedere questa cosa a danno del tuo onore o contro la tua volontà, onde andiamo a combattere per te, ma questi nostri avversari adorano un altro Dio, perché le loro opere sono troppo diverse dalle nostre. Oh Signore, questo popolo non vuole altro che servirti. Vuoi tu, popolo mio, servire il Dio?» E qui tutti ad alta voce esclamavano di sì. Allora il Savonarola raccomandò agli uomini di fare orazione in chiesa mentre che esso apparecchiava ai frati per andare in piazza, e alle donne raccomandava di continuare indefessamente la preghiera sino a che non si tornasse dall'esperimento. In questo momento arrivarono i mazzieri della signoria ad annunziare che ogni cosa era in ordine, e subito i frati di San Marco si avviarono in processione. Frate Domenico andava in mezzo ai suoi confratelli, Malatesta Sacramoro e Francesco Salviati, vestito con un piviale di velluto rosso fiammante e con una lunga croce in mano, procedeva innanzi a tutti con la testa alta e la fronte serena. Seguiva poi il Savonarola vestito di bianco col sacramento in mano. Dietro a lui venivano tutti i frati in numero di circa 200 e con voce sonora cantavano il salmo «Exurgat Deus et dissipentur inimici eius». Arrivati sulla piazza circa le ore 18 ne trovarono gli sbocchi asserragliati e guardati da gente armata. Passarono quindi a due e non appena entrarono fra la moltitudine questa accompagnò il loro canto con tal voce che quasi ne tremò la terra. La folla era innumerevole, pareva che tutta la città si fosse raccolta nella piazza e negli edifici intorno. Erano gremite le finestre, le terrazze e i tetti, i più agili stavano attaccati alle inferriate, abbracciati alle colonne, alle statue, alcuni pendevano arrampicati alle mura e in tal posizione aspettavano dal mattino. La loggia dell'Anzi era con un tavolato divisa in due parti. In quella più lontana dal palazzo stavano i frati minori. Nell'altra, che aveva nel mezzo un piccolo altare, vennero i domenicani. Fra Domenico, posato il sacramento sull'altare, vi si inginocchiò dinanzi e si mise in profonda orazione. I suoi compagni stavano silenziosi intorno a lui. Avanti alla loggia venne a disporsi una guardia di 300 fanti comandati da Marcuccio Salviati, gente valorosa e fedelissima al convento di San Marco. Ma sotto il tetto dei pisani stavano armati 500 compagnacci comandati da Doffo Spini e altri 500 fanti della signoria comandati da Giovacchino della Vecchia stavano innanzi al palazzo oltre alle guardie che, secondo il costume, tenevano gli sbocchi delle vie. Questi 1000 uomini, padroni così della piazza, erano tutti prontissimi ad offesa del Savonarola ed egli con animo sereno contemplava il pericolo in cui si trovava e guardava il palco già apparecchiato. Distendevasi quel singolare apparecchio per la lunghezza di 40 braccia dal marzocco verso il tetto dei pisani. La sua base, larga 5 braccia, alta 2 e mezzo, era coperta di terra e mattoni. Sopra di essi furono disposte cataste di legno con polvere da sparo, oli e materie resinose, lasciando nel mezzo un passaggio libero a 2 campioni per la larghezza d'un braccio. Non mancava altro se non che venissero i due frati e si accendesse il fuoco. Sino ad ora il Savonarola aveva temporeggiato e tentato di impedire che l'esperimento avesse luogo. I frati minori lo avevano invece sollecitato e provocato, ma innanzi al palco già pronto le parti si mutarono. Il Savonarola, eccitato dalla moltitudine spettatrice, dal canto solenne dei suoi frati, dall'entusiasmo sublime veramente di Fra Domenico che, dopo essersi profondato nella orazione, era divenuto impazientissimo di entrare nelle fiamme, il Savonarola s'era egli stesso persuaso che il Signore aiutava il suo discepolo e quindi voleva ormai togliere ogni indugio. Ma né Francesco di Puglia, che aveva provocato l'esperimento, né Girolamo Rondinelli, che doveva sostenerlo, erano ancora comparsi sotto la loggia. Se ne stavano invece in palazzo a segreto colloquio con la signoria e i signori, in luogo di scendere sulla ringhiera per assistere ad uno spettacolo tanto solenne che fra pochi minuti doveva aver luogo, discutevano continuamente fra loro. Pareva non sapessero più a qual partito appigliarsi. Ed a tanto poté giungere l'impudenza che, mentre non si aspettava altro che la venuta del frate minore e l'ordine della signoria, essa mandò ad interrogare i domenicani perché non davano principio. A questo Fra Domenico fremeva ed il Savonarola faceva dire che ormai s'affrettassero una volta, non tenessero più il popolo a disagio. Allora i minori, vedendosi a mal partito, cominciarono a metter fuori 1000 pretesti. Innanzitutto, per mezzo di Piero degli Alberti, che era proposto all'esperimento e nemicissimo del Savonarola, fecero dire che il piviale rosso di Fra Domenico poteva essere incantato dal Savonarola, onde volevano che se ne spogliasse. Fra Domenico e il Savonarola risposero che s'era sottoscritto un contratto per evitare ogni disputa, che essi non credevano agli incantesimi e davano ai loro avversari ogni facoltà di valersene. Ma pure tante furono le insistenze che Fra Domenico cedette e si tolse il piviale. I minori affacciarono nuove pretensioni, dicevano che l'abito stesso poteva essere incantato e Fra Domenico, cedendo anche a questo, si mostrò pronto a mutarlo con una qualunque delle vesti dei suoi compagni. Fu quindi menato in palazzo e, spogliato di tutto, venne rivestito con gli abiti del domenicano Alessandro Strozzi. Ritornato in piazza gli vollero impedire che stesse vicino al Savonarola per timore che questi non lo incantasse di nuovo e Fra Domenico fu contento di restare in mezzo ai frati minori. Quel giorno la sua pazienza fu grande quanto il suo coraggio. La grandissima brama di entrare nel fuoco lo faceva piegare a tutto onde poter venire più presto al cimento. ma il campione della parte avversa se ne stava insieme col pugliese sempre in palazzo ed ancora non compariva. Il Savonarolo già ne diveniva impaziente e ciò che sempre più lo metteva in sospetto era il continuo discorrere di cittadini coi frati minori che in ogni cosa venivano favoriti. Quelli che erano stati proposti all'esperimento prendevano sempre le loro parti e li scusavano di tutto, onde per mettere finalmente un termine a queste incertezze il Savonarola mandò a far sollecitudine in palazzo. Ma allora appunto i due frati minori chiesero e ottennero un altro segreto colloquio coi signori. Quel che si dicessero non sappiamo, ma è certo che d'ora in ora diveniva più chiaro questo esperimento non essere altro che una trama abilmente ordita contro al Savonarola e ai frati di San Marco. In questo punto s'era cominciata ad esaurire la tolleranza della moltitudine che da tante ore si trovava nella piazza. La più parte erano digiuni sin dal mattino e quasi furiosi per la impazienza del vano attendere. Già per ogni dove si levava un cupo mormorio cui succedevano grida sediziose e gli arrabbiati che sin dal mattino attendevano quel momento cercarono subito di profittarne. Un tal bravo loro staffiere riuscì a levare il rumore ed in un momento la piazza fu piena di tumulto. Gli sbocchi delle vie essendo chiusi la gente si trovò circondata e ristretta, onde cominciò a correre verso il palazzo. Qui pare che secondo l'accordo dovessero gli arrabbiati impadronirsi della persona del frate e finirlo con le proprie mani. Il colpo fu tentato, ma il Salviati ristrinse la sua gente innanzi alla loggia e, segnata in terra una linea con la sua spada, esclamava: chiunque passerà questa linea vedrà cosa possano le armi di Marcuccio Salviati. E lo disse con tal voce che ognuno ebbe animo di farsi innanzi. Nello stesso tempo avveniva che i soldati forestieri della signoria, non sapendo che si fosse quel subito tumulto e vedendo la gente correre verso il palazzo, la respinsero indietro gagliardamente. Ogni cosa era in tal modo ritornata nella calma. La moltitudine rassicurata si trovava con maggiore desiderio di vedere l'esperimento e la signoria più impicciata di prima. Qui sopravvenne una pioggia dirottissima con tuoni e lampi, sicché pareva che si dovesse por termine alla cosa, ma il popolo era tanto avido dell'atteso spettacolo che restò immobile e la pioggia, venuta ad un tratto, cessava del pari improvvisamente, onde tutto restava nella medesima incertezza di prima. Ed ancora il frate minore non compariva, ma invece i suoi compagni ripigliavano a far nuove obiezioni. Chiesero che fra Domenico lasciasse il crocifisso che aveva fra le mani ed egli subito lo lasciò, dicendo che voleva entrare nel fuoco col sacramento. Ma qui nuova e più accanita disputa, dicendo ai minori che egli così voleva bruciare l'ostia consacrata. Allora fra Domenico cominciò a perdere la pazienza e volle tener fermo, sostenendo insieme col Savonarola come in ogni caso non sarebbero bruciati che gli accidenti, rimanendo sempre intatta la sostanza del sacramento, e citavano l'autorità di molti dottori. Gli avversari, vedendo come per la prima volta trovavano un poco di resistenza, attaccarono più forte la disputa contro al Savonarola, non sapendo ormai come fare a prender tempo. E mentre che essi disputavano, la signoria, approfittandone, mandò ordine che l'esperimento non dovesse più aver luogo. L'indignazione che si manifestò allora nel popolo non è descrivibile, e siccome ognuno sapeva contro cui dovesse rivolgersi, così più accusavano il Savonarola, ed i piagnoni stessi andavano dicendo che egli avrebbe dovuto entrare solo nel fuoco per dar finalmente una prova indisputabile della sua soprannaturale potenza. Gli arrabbiati e la signoria spargevano per tutto che ormai s'era scoperta l'impostura del Savonarola, che egli aveva avuto paura di entrare nel fuoco e simili menzogne. I frati minori andavano impudentemente cantando vittoria, mentre il loro campione s'era nascosto in palazzo e non gli era bastato l'animo neppure di guardare il palco apparecchiato. Così tutta la città fu piena di voci contro al Savonarola e contro San Marco, ed infatti a gran fatica poterono i domenicani tornare salvi al convento scortati dalle cette di Marcuccio Salviati, il quale con un pugno dei suoi più valorosi si strinse intorno a fra Girolamo e fra Domenico e li difese coraggiosamente con la spada in mano dagli insulti di un'efferrata moltitudine che era aizzata dai compagnacci. Entrato finalmente in chiesa, il Savonarola trovò le donne che erano ancora in orazione, salì sul pergamo e fece un breve racconto di tutto l'accaduto, mentre in piazza echeggiavano ancora le grida furibonde della moltitudine. Licenziato poi l'uditorio, si chiuse nella sua cella, con l'animo travagliato da un dolore che la penna nella parola umana non potrebbero mai descrivere. I frati minori invece trionfavano e la signoria assegnò loro la pensione annua di 60 lire per 20 anni in remunerazione dei servigi prestati. Però quando essi mandarono la prima volta a riscuoterla, il camarlingo del monte fu così indegnato della loro viltà che nell'atto di consegnare il danaro disse: «Ecco, prendete il prezzo del sangue tradito». Da Roma vennero subito due brevi in data del 12 aprile, uno ai frati minori in cui si lodava il santo zelo e la carità evangelica dimostrata nel fare opera di cui il santo padre avrebbe serbata eterna memoria. Nell'altro breve, indirizzato a frate Francesco di Puglia, il papa si congratulava caldissimamente con esso lui, in nome proprio e di tutti i cardinali, incitandolo a perseverare in opera tanto buona e tanto pia sino alla totale distruzione del male.